1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 8:18 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci, siamo sempre pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo alle 8:15 di un tema che ha tirato fuori il professor Roberto Perotti sulla voce. È un tema, il professore Perotti si concentra molto sulla spesa pubblica, oggi se la prende con la spesa dei nostri rappresentanti all'estero, i nostri ambasciatori. Più pagati al mondo in pratica rispetto ai tedeschi, rispetto ai francesi, rispetto ai rappresentanti del Ministero degli Esteri degli altri paesi, ne scopriremo delle belle o delle brutte, vedete voi. Questo dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali che troviamo in edicola. È giovedì 6 febbraio, cari ascoltatori, e vediamo intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre così: stop alle cartelle del fisco per chi ha crediti con la pubblica amministrazione. È un tema legato anche ai crediti delle aziende che abbiamo trattato un paio di giorni fa. Mentre la politica, con la decisione del presidente del Senato Grasso di far costituire il Senato stesso parte civile nel processo contro Berlusconi a Napoli, è il tema che dà l'apertura a molti giornali. Strappo di Grasso su Berlusconi, così il Corriere della Sera. Repubblica, Berlusconi, il Senato parte civile. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi torna padrone del Senato ma Grasso lo sgambetta. Il Senato contro Berlusconi è il titolo anche dell'Unità. Il Messaggero, Senato contro Berlusconi è lite. Il Giornale, nelle mani dei boia, Grasso impone, tutto il Senato chiede i danni a Berlusconi. Napolitano ordina al PD, niente Renzi, tenete il governo Letta. Voti comprati, la sfida di Grasso, così apre anche il Secolo XIX, mentre di politica si parla anche per le voci sempre più insistenti appunto della staffetta, il cambio Renzi-Letta a Palazzo Chigi. La Stampa però titola Napolitano blinda Letta, mentre Libero, sorpresa, rivince Silvio, sotto il titoletto Letta ai giorni contati. L'apertura invece del Manifesto, ex fabbrica. Questo è il titolo, non ha lasciato scritto nulla, ma Giuseppe De Crescenzo, 42 anni, da 6 anni cassa integrato alla Fiat di Pomigliano, lo conoscevano tutti e si è suicidato alla vigilia della festa in fabbrica organizzata da Marchionne. Questo è il titolo di apertura dedicato a questa vicenda. Avvenire invece, lo vedremo anche nel corso della rassegna stampa, pedofilia, boomerang ONU, i difensori dei bambini, difensori tra virgolette, il Vaticano fa poco ed è contro aborto, contraccettivi e nozze gay. Questo è il titolo di Avvenire. Ma voglio partire e continuare in qualche modo in un filo rispetto ai giorni scorsi con quella che è definita dal quotidiano Il Messaggero la Mandrillade d'Abruzzo. Beh, ieri il governatore Gianni Chiodi ha fatto questa conferenza stampa per la quale lo stesso Messaggero scrive, molti gli hanno detto ma è davvero consigliabile? Molti amici affrontare così apertamente la muta feroce di TV e di giornali, perché non tenersi al riparo dopo l'interrogatorio in procura? Ma Gianni Chiodi ha voluto fare questa conferenza stampa nella quale ha detto in estrema sintesi: mi ricandido, sono stati solo degli errori, dei pasticci, restituitemi la dignità. Insomma, in maniera molto coraggiosa certamente ha affrontato tutti i giornalisti che gli hanno fatto tutti i tipi di domande. E per esempio il viaggio pagato con la carta di credito della regione per la moglie per andare a Washington, ovviamente in business class o in prima classe, non ci sarebbe nulla da giustificare, ma le cose sono andate diversamente, le voglio raccontare, così Chiodi. Quel biglietto l'ho pagato di tasca mia, c'è stato solo un disguido con l'agenzia di viaggio. Al momento di saldare i conti hanno usato la mia carta di credito personale per pagare il mio biglietto e quella della regione per mia moglie. Hanno incrociato le due carte di credito, tutto qui, ecco le prove. E poi ancora su questa camera con la notte passata con Letizia Marinelli. Mi interessa dimostrare un punto, non ci sono stati artifici o raggiri, non ho cercato di ingannare la regione. Leggete qui sulla ricevuta, persone 2, cioè Pax 2, vuol dire persone 2, non ho ingannato nessuno. Era una doppia uso singola e avrebbe detto ai magistrati, scrive Repubblica, hanno sbagliato alla ragioneria della regione a rendicontare questa cosa. E ancora avrebbe aggiunto, questo nell'interrogatorio, scrive Repubblica, Gianni Chiodi, l'autista sbagliato è lui che si occupa di conservare tutte le ricevute delle missioni. E invece ha aggiunto questo in conferenza stampa: non ho fatto la cresta, anzi devo io avere dei soldi dalla regione. In questi 10 giorni passati tra le carte ho scoperto che mi sono state rimborsate somme inferiori a quelle dovute e sto rifacendo tutti i conti. Quindi, estrema sintesi, un pasticcio dell'agenzia di viaggi che ha incrociato le carte di credito, un errore dell'autista che non ha tenuto bene gli scontrini, uno sbaglio di rendicontazione della ragioneria della Regione Abruzzo che ha sbagliato a rendicontare la stanza e anzi sapete che c'è, la Regione mi deve dei soldi. Questo è stato la giornata di Gianni Chiodi riassunta così dai giornali. Anche il Fatto Quotidiano che ha lanciato questa vicenda: Chiodi, volevo pagare, l'errore è del mio staff e ora mi ricandido. Ci saranno altre puntate, vedrete. Tra l'altro, a proposito di cause, ha fatto molto scalpore la notizia che la Corte dei Conti chiede dei danni quantificati in 351 miliardi di euro. A che cosa? Alle agenzie, a chi? Una causa che viene fatta nei confronti di Standard & Poor's, Fitch, Moody's, cioè quelle agenzie di rating che devono decidere, decisero in questo caso il downgrading, il declassamento del 2011, quando c'era il governo Berlusconi, nei confronti dell'Italia. La richiesta è stata formulata dal procuratore della Corte dei Conti del Lazio, Angelo Raffaele De Dominicis. 351 miliardi di richiesta danni, perché tra l'altro hanno detto, hanno sbagliato, non hanno tenuto conto nel valutare il valore, il patrimonio dell'Italia, per esempio non hanno tenuto conto del valore del patrimonio artistico italiano, insomma, e quindi hanno sbagliato a calcolare il valore del nostro paese e si sono basati a fare un giudizio, dare un downgrading su dei valori sballati. Sapete che c'è molto la polemica su come decidono anche queste agenzie di rating di declassare oppure non declassare i paesi, i governi. E c'è un'intervista al procuratore Angelo Raffaele De Dominicis, procura della Corte dei Conti per il Lazio, intervistato dal Corriere della Sera da Lorenzo Salvia. Ecco perché l'indagine, anche Obama la pensa così. Tra l'altro l'esordio è questo, virgolettato del procuratore: guardi che se lo spread sta calando, lo spread intende, sì, insomma, se scende è perché dopo noi che ci siamo mossi, quelli si sono dati una calmata con i downgrade, procuratore, ecco, sì, quelli. E poi anche Obama li ha chiamati a rispondere. Voglio dire, se non avessi lanciato il mio sasso nello stagno non sarebbe mica successo, non le pare? Eccolo qui l'uomo che ha dichiarato guerra alle Big Three, le tre grandi agenzie di rating. Si chiama Angelo Raffaele De Dominicis, è il procuratore della Corte dei Conti per il Lazio, 30 pubblicazioni scientifiche in curriculum, un libro di poesie, un saggio che intreccia le vite di Andreotti, Paolo Conte e Tinto Brass. Così lo presenta il Corriere. Procuratore, come è arrivato a calcolare i danni? 234 miliardi. E no, non hanno letto bene, i miliardi sono di più, 351. 117 per il costo delle manovre che il governo italiano ha dovuto approvare dall'inizio della crisi, altri 234, il doppio delle manovre, è il danno morale causato dalla perdita di credibilità internazionale. Senta, il patrimonio artistico cosa c'entra? Il concetto è semplice, risponde il procuratore, anche se l'hanno buttata in caciara, come si dice. Se tu sei il mio debitore, a me non interessa sapere quanto guadagni, ma quante case hai, quanti titoli, soldi in banca. È sul patrimonio che mi posso rifare, non sulla busta paga. Con gli stati funziona allo stesso modo. Ma l'indagine da cosa parte? Da una denuncia? No, sentite il procuratore, dalla lettura dei giornali. Mi è sembrato subito chiaro che ci fosse un attacco all'Italia. Ci invidiano perché siamo tra i più ricchi al mondo. Ma un attacco di chi, scusi, procuratore? Questo lo dovreste scoprire voi. Resta il fatto che i tagli del rating erano immotivati, avevano come unico obiettivo far scendere il valore delle nostre aziende. Senta, ma lei sembra pronto per la politica così. Scherza, non accetterei mai. Guardi che sono stato io a sollevare la questione di legittimità costituzionale sul finanziamento ai partiti. Faccio solo il mio dovere, gli altri non lo so. Ma gli altri chi? La verità è che sono isolato dalla politica, poche parole. Così parlò tra Spread e Downground il procuratore della regionale della Corte dei Conti del Lazio, De Dominicis, che è colui che chiede appunto questi 351 miliardi di euro alle tre agenzie di rating. Oh, devo dare... Ma sì, dai, prendiamoci una pausa di respiro, un respiro con la vicenda Balotelli. Ma perché no? Perché no? Super Mario, no? Che si è convinto, è diventato papà via Twitter. Avete visto? Via Twitter ha detto ai papà. Libero, giustamente, scrive, fa un articolo, tutti i giornali fanno un articolo su questo, no? Giuseppe Pollicelli a un certo punto su Libero scrive, ma bastava guardare l'estrema somiglianza della figlia di Raffaele Fico, anche il colore della pelle, che non c'era bisogno di fare. Però, insomma, ha fatto questo test del DNA e l'ha annunciato su Twitter. Ed è straordinario il commento, a mio modo di vedere, di Giampiero Timossi in prima pagina del Secolo XIX, ed è codesto: Balotelli, un tweet e diventa papà. Rassegnatevi, è caduta anche l'ultima foglia di fico. Ieri, finito l'allenamento, Balotelli, attaccante della nazionale italiana del Milan, aveva ancora qualche minuto libero, ha deciso di fare qualcosa di indimenticabile, non ha accarezzato la chiave di una nuova Ferrari bianca, non esageriamo. Ha deciso che era arrivato il momento di dire a sua figlia: sì, Pia, hai un papà. L'ha abbracciata? Ma no, siete davvero dei pirla. Le ha scritto un tweet in inglese. Pazienza se la piccola ha 2 anni non sa leggere, pazienza se tutto arriva dopo udienze in aula disertate e inconfutabili risultati del test del DNA. Balo è così, fidatevi, è un ragazzo vero che odia il gossip. Sarà per questo che sempre ieri ha riservato un cinguettio di fuoco alla mamma di Pia e un altro poi rimosso alla conduttrice TV Barbara D'Urso, che sul caso spara cazzate senza sapere, virgolettato. Poi, sempre nel più assoluto rispetto della tutela dei minori, sul profilo Facebook ufficioso, ma in realtà sicuramente riconducibile al calciatore, Super Papà Mario ha lanciato un messaggio complice a Francesco Fico, fratello dell'odiata ex fidanzata. Chiamami, hai vinto tu, eh? Così il quadro familiare è completo, in bocca al lupo, piccola Pia. Magari un giorno, tra qualche anno, un ragazzo o una ragazza diranno di amarti davvero e, avendo la batteria dello smartphone scarica, lo faranno stringendoti la mano, guardandoti negli occhi, anche con un po' di vergogna, che non sempre guasta. Questo Giampiero Timossi in prima pagina del Secolo XIX. Ripartiamo dopo la pubblicità con la politica, che ha 2 grandi notizie. Allora, è pronta questa staffetta Renzi-Letta al governo? Si vocifera sempre più di sì, almeno sui giornali. E poi la vicenda Grasso, Senato, Berlusconi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Come detto, sono 2 le notizie politiche del giorno. La prima è il fatto che il Senato ha deciso di costituirsi parte civile in confronto di Berlusconi per il processo a Napoli. Per la verità la decisione coinvolge tutto il Senato, ma la decisione è stata una decisione presa personalmente dal presidente del Senato Pietro Grasso. Anzi, l'ufficio di presidenza, votando, aveva deciso di non costituirsi parte civile, ma il regolamento prevede che l'ultima parola spetti al presidente. E allora Pietro Grasso, tra l'altro, racconta nei giornali, da ex magistrato, ha fatto anche questa battuta all'ufficio di presidenza ieri al Senato: mi ritiro in camera di consiglio per deliberare. Questa battuta ironica, che peraltro ironica non è stata presa con uguale ironia da Silvio Berlusconi, che ha iniziato a ribattere con la questione del partito dei magistrati che ce l'ha con me. Insomma, questa decisione è stata una decisione personale. Senato, parte civile contro Berlusconi. Così pagina 6 del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri racconta come il Senato si costituirà parte civile, perché a deciderlo è stato Pietro Grasso, presidente del Senato. Senato, nonostante il parere contrario espresso dall'ufficio di presidenza di Palazzo Madama. È un dovere morale, ha detto Grasso. Questo tra l'altro ha fatto arrabbiare molto Linda Lanzillotta, che in ufficio di presidenza, senatrice, ha votato, era molto attenzionata perché il lago della bilancia si votava, si era su due, un paio di senatori, una era Lanzillotta che appunto aveva deciso di non costituire, far costituire il Senato parte civile, e che se la prende in un'intervista per esempio a Repubblica pagina 2, dice: è una decisione senza precedenti, ha prevalso l'approccio del PM, ecco appunto l'approccio del PM Pietro Grasso. E soprattutto non è piaciuto questo dovere morale specificato da Grasso, come se, dice Linda Lanzillotta, la decisione dell'ufficio di presidenza e quindi anche la mia sia stata una decisione immorale. Non mi piace questo, soprattutto se questo assunto per converso implica che è immorale chi ha un'opinione diversa. In questo caso non è in gioco una categoria etica, ma giuridica e costituzionale. Dunque Grasso, chiede Repubblica, ha assunto una posizione preconcetta contro Berlusconi? No, il presidente si è assunto le sue responsabilità in linea con le sue prerogative. Il nostro pronunciamento non era vincolante, così è stato. Diciamo che l'ex procuratore nazionale antimafia ha fatto prevalere il suo approccio da magistrato, legittimo, sia chiaro. Io invece, dice Linda Lanzillotta, ho un approccio diverso. E per questo si è sorbita gli insulti dei grillini. Questo atteggiamento è intollerabile, dice Linda Lanzillotta. Difendere le proprie argomentazioni nel merito ed essere aggrediti con calunnie non è da paese civile. Siamo finiti su un piano inclinato pericolosissimo. Gli atteggiamenti sono squadristici. Sta di fatto che il giornale attacca molto duramente. La notizia viene messa in prima pagina così. Il titolo è "Nelle mani dei boia". C'è l'editoriale di Salvatore Tramontano in prima pagina che scrive: vuoi vedere che non era così folle sostenere, come hanno fatto di recente i grillini, che il paese sta finendo nelle mani dei boia? Ieri il procuratore a vita Grasso, presidente del Senato, non ce l'ha fatta a resistere alla tentazione. Sembrava, dopo il consiglio di presidenza del Senato che aveva votato no, che Palazzo Madama non potesse costituirsi parte civile. Non scherziamo, leader di Forza Italia va combattuto in ogni modo, troppo forte diventa l'asse tra lui e Renzi. Allora ci ha pensato Grasso ed è impensabile che l'abbia fatto senza consultare Napolitano. Ecco, questa è l'accusa anche del giornale, ma anche nei retroscena della politica. Carmelo Lopapa, per esempio, racconta su Repubblica pagina 3 che così Berlusconi ha detto ai suoi: di cosa vi stupite? Grasso risponde al capo dello Stato Napolitano. Il disegno è chiaro. Il titolo dell'articolo è "La delusione del Cavaliere, tutta colpa di Napolitano, vogliono far saltare le riforme". Così avrebbe detto, continuando, Berlusconi coi suoi: è chiaro che dietro la decisione di Grasso c'è il Presidente della Repubblica, c'è lui dietro ogni tentativo di delegittimarmi. E sta di fatto che l'altra notizia del giorno è quella invece delle voci, come ho detto ieri, insistenti da giorni e sempre più insistenti, di un possibile cambio al governo Letta-Renzi. C'è una girandola di incontri. Letta ieri ha visto Squinzi oggi, dopo ascolteremo l'intervista da Giovanni Minoli, presidente di Confindustria, vedrà Renzi. Ma è un risico, insomma, di incontri, di girandola. Qualcosa si muove, tanto che, racconta il Messaggero, è il più duro in questa analisi, Letta è tornato dal giro negli Emirati Arabi, in Qatar, in Kuwait, disgustato e amareggiato, così nel retroscena di Alberto Gentili in prima pagina del Messaggero. Dopo la trasferta negli Emirati, il ritorno a Roma è dei peggiori, con la minoranza del PD che spinge per Matteo Renzi a Palazzo Chigi in modo da poter riprendere il timone del partito. Gli alleati di governo, il Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, che pur di scongiurare le elezioni sognano di fissare il voto nel lontano 2018 e dunque sono pronti a incoronare il segretario democratico Renzi. Tant'è che per tutta la giornata, scrive il Messaggero, si sono addirittura rincorse le voci di un Letta tentato dalle dimissioni. Renzi invece continua a rispondere di no, ma in realtà fa sapere il Messaggero che cresce la tentazione anche in lui di valutare questa possibilità, cioè di andare a Palazzo Chigi. Secondo il Messaggero comincia a dire: se me lo chiedessero in tanti. E secondo il Messaggero e secondo il Corriere della Sera lo scenario è uguale. L'ipotesi è questa: Napolitano presto verrà sostituito come Presidente della Repubblica, questo Parlamento voterà il prossimo Presidente, si vocifera di Romano Prodi e Romano Prodi potrebbe essere, diciamo, la spinta per portare Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Per carità, fantapolitica, fantascienza, non lo so, però sia il Messaggero e sia Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera prevedono questa ipotesi. Molto interessante a questo proposito è ciò che scrive Claudio Cerasa in prima pagina sul Foglio. Il titolo è «I potenti che spingono Renzi a rottamare Letta». Cerasa parte da questa metafora utilizzata, pare, dallo stesso Renzi, cioè che si sente come un surfista che non vede l'ora di poggiare la tavoletta su un'onda molto alta che potrebbe travolgere tutto e potrebbe lanciare lui, il travolgere tutto prima fra tutti, Enrico Letta ovviamente. Ma Cerasa poi spiega chi è che spinge quest'onda. Beh, molto banalmente l'establishment. L'establishment, se mettete uno accanto all'altro i volti che hanno cominciato a soffiare, si può capire perché il vento in questione non è un vento come tutti gli altri. Prendete fiato: Mario Greco, numero uno di Generali, Diego Della Valle, capo della Tozza, Alberto Naghe, l'amministratore delegato di Mediobanca, Jacopo Mazzei, presidente del Consiglio di Sorveglianza Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro, presidente del Consiglio Gestione Intesa San Paolo, Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli, Gianfelice Rocca, Lombarda, Lorenzo Binismaghi, presidente di Snam, Renato Pagliaro, presidente Mediobanca, Francesco Gaetano Caltagirone, presidente del gruppo omonimo editore del Messaggero, Fabrizio Palenzona, vicepresidente di Unicredit, Andrea Guerra, amministratore delegato di Luxottica, ovviamente Carlo De Benedetti dell'Espresso. La ragione per cui i nomi qui elencati hanno deciso di gonfiare le guance e spingere in questo vento è più o meno per tutti la stessa. Questo governo non è il peggio che ci poteva capitare, ma dato che Letta non riesce a far viaggiare il paese alla giusta velocità di crociera, è arrivato il momento di cambiare aria e puntare sull'unico politico che potrebbe salire sul surf, prendere il timone e far cambiare rotta all'Italia: Renzi. Ecco, secondo Claudio Cerasa c'è proprio questo establishment, questi nomi potenti che stanno spingendo per Renzi. Voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Tu dietro hai tutta questa spinta, vero? Buongiorno Alessandro. No, temevo mi citassi nell'elenco dell'establishment. Poteva essere. E c'è anche Mauro Meazza che spinge per Renzi. E questo è l'ultimo. No, per carità, non voglio prendere posizione, faccio il cronista, ci mancherebbe. È già un lavoro quello, insomma. Con i suoi impegni. Hai visto che si potrà finalmente compensare in qualche modo il crediti con la PA, le cartelle Equitalia, si può sospendere? Sì, ho visto l'apertura del Sole, certo. Ecco, leggi bene però i dettagli, a pagina 3, così come segnalo anche ai lettori, perché c'è tutta una spiegazione in questo lavoro che hanno fatto Mobili, Marco Mobili e Giovanni Parente. Attenzione che ancora ci vuole la definitività del provvedimento e poi ci vuole il provvedimento attuativo. Quindi ci sono buone notizie a pagina 2 e pagina 3. Fondo di garanzia esteso anche ai professionisti e questa altra notizia sui crediti vantati con la pubblica amministrazione. Però attenzione ai dettagli, perché come sai spesso il diavolo è a nascondere nei dettagli. Hai visto che Yahoo se ne va? Se gli è piaciuto? Vanno in Irlanda. Ormai è così. È un turismo, oramai, è un turismo fiscale, sembra. No, sicuramente avranno motivi organizzativi, ci mancherebbe altro, però vedo che sono tutti attratti dall'Irlanda. Bisogna che anche tu e io decidiamo di andare in Irlanda prima o poi, Alessandro. Sì, potrebbe essere. Lo spiega bene Masciaga nelle pagine di Finanza, comunque. Se succederà qualcosa di buono se tutti vanno in Irlanda, no? Immagino. Ma evidentemente sì. Programmiamo anche tu e io un viaggio in Irlanda con i tuoi 2 euro, e se tu metti il capitale, e poi vediamo che cosa possiamo costituire. Poi c'è una promessa di un fisco migliore, l'IRAP che dovrebbe finalmente essere sgravata dal lavoro autonomo minore, sta nella delega fiscale, arriverà, è ancora in discussione ma arriverà, vediamo, vedi in norme e tributi ci sono tutti i particolari, in norme e tributi come al solito, particolari per Radio Fisco. Certo. Sì, certo, c'è un messaggio, Mauro, per te, perché sai che devi stare attento su queste cose. Dite che è un emendamento del Movimento 5 Stelle, è vero? Lo chiedo a te, Mauro Meazza, la questione dei crediti. No, non l'avevi detto, e tu sei antigrillino. No. No, per carità, tu sei anti, no. C'erano anche complotto, del nuovo dietrologia, complotto. Ecco, vabbè, andiamo in Irlanda. Senti, cominciamo a ragionare. No, perché è arrivato il messaggio. Euro. Ditelo che è un emendamento del 5 Stelle. Bestie, bestie. Adesso non mi sembra il caso di esagerare. Si può anche chiedere per favore. Ecco. No. Si sa che sono perentori i messaggi dei nostri ascoltatori. Va bene, perentoriamente era un emendamento del Movimento 5 Stelle, sì. Però è stato votato anche da altri partiti, non so se questo si può dire. Non lo so. Vabbè, lo spiegano comunque molto correttamente e puntualmente Mobili e Parente a pagina 3. Che loro bestie non sono, ecco. No, assolutamente, ci mancherebbe. Poi concludiamo così, vabbè, dai, la nostra dose ce l'abbiamo avuta anche oggi. Ma è Michele da Monza sempre? No, non si ferma. Non so se è Michele da Monza, al quale mandiamo ovviamente un grande abbraccio. Mauro, però ti devo salutare, che devo andare alle informazioni sul traffico, siamo già un po' in ritardo e riprendiamo tra un attimo. Grazie Mauro, ma ti vogliono molto bene soprattutto, poi qualcuno ogni tanto, porta pazienza, dai, il traffico, a domani. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. Ma siete matti, questa non l'avevo mai sentita, ma siete impazziti, vabbè, scusate, la novità anche per me, me l'hanno messa adesso senza avvisarmi, una razza di disgraziati qua. Ringrazio il nostro ascoltatore che dice: ritiro il bestie, grazie Milan e Meazza, potete chiamare Meazza che non è più una bestia, potete dire ha ritirato l'accusa. Vabbè, continuiamo con le notizie. Allora, la vicenda degli insulti, eccetera. Laura Boldrini, presidente della Camera, prende carta e penna, oggi scrive a Repubblica, risponde a Barbara Spinelli, il titolo è "La ghigliottina non si ripeterà", fa tutta una precisazione del perché ha preso questa decisione: mi sono assunta responsabilità anche per conto di altri che hanno preferito attestarsi su posizioni rigide, non nel dire questo non nego che si sia trattato di una decisione complicata e considero legittime le critiche che non avrei ricevuto se avessi privilegiato ragioni di opportunità politica anziché esercitare le mie responsabilità istituzionali di garanzia. Sta di fatto che, scrive Laura Boldrini, comunque è stata e tale voglio che rimanga una misura del tutto eccezionale. Insomma, come dire, il titolo di Repubblica è "La ghigliottina non si ripeterà". Questo servirà a placare gli animi? Non si sa. Sta di fatto che secondo il Libero alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle sono pronti addirittura a querela di massa contro la Boldrini. Sta di fatto che la politica non si abbassano i toni per il momento. Voglio dedicare alcuni minuti sulla vicenda che è titolo di tutti i giornali. Ieri una notizia che è esplosa con l'accusa dell'ONU nei confronti del Vaticano, reo di avere coperto per anni gli abusi sessuali nei confronti di bambini, quindi la pedofilia. L'ONU accusa il Vaticano, permise gli abusi. Questo è un titolo che trovate ovunque, un rapporto di 16 pagine dove di una commissione della quale faceva parte anche una sola italiana, Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Movimento Bambino, che viene intervistata, per esempio, visto sulla Stampa, Roselina Salemi la intervista e lei dice: non vogliamo dare lezione a nessuno, ma ora i preti riflettano. Cosa però ha fatto suscitare reazioni in Vaticano, cioè non le considerazioni in sé, ma anche il fatto che in questo rapporto di 16 pagine si invita il Vaticano anche ad avere una situazione di maggiore comprensione nei confronti, per esempio, della contraccezione, nei confronti dell'aborto. Ed è queste accuse che hanno fatto storcere la bocca in Vaticano, per esempio l'osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU, arcivescovo Tomasi, viene intervistato dal Corriere della Sera da Gian Guido Vecchi e dice: mi hanno fatto parlare, è vero, ma in quella commissione il giudizio era già stato scritto, non si possono mettere insieme casi di 30-40 anni fa con la situazione di oggi, come se nel frattempo non ci fosse stato un lungo lavoro di purificazione e modifiche legislative. Questa è anche la accusa di Avvenire, che mette in prima pagina il titolo "Pedofilia boomerang dell'ONU", perché le osservazioni sull'azione della Santa Sede del Comitato per la Convenzione sui diritti del fanciullo prevedono anche, oltre a severe misure nei severi giudizi nei confronti del Vaticano, si accusa, scrive Avvenire, anche la visione morale della Chiesa. E quindi su aborto, contraccettivi, nozze gay viene data questa lettura dal Vaticano, che risponde non ci possono imporre idee su come dobbiamo trattare i temi etici. Questa è anche l'intervista, per esempio, che Paolo Rodari fa su Repubblica al segretario della CEI Galantino, che dice: le Nazioni Unite non interferiscano sui temi etici. Prima di chiudere, c'è da dire solo su Repubblica una cifra che farà storcere il naso a molti di voi che siete in questo momento all'ascolto, genitori. Dalla culla alla maturità, Federconsumatori ha fatto un'indagine. Sapete quanto costa un figlio, quanto costa crescere un figlio mediamente dalla culla fino ai 18 anni? Tenetevi forte: 171.000 euro, è il 25% in più degli anni 70. 171.000 euro. Va bene, siamo in conclusione, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, ragazzi, sulla Stampa stravince. Lorenza Castagnieri, non è la prima volta, la saluto, l'abbraccio a pagina 16, c'è una mezza pagina su cosa, cari amici. Ecco la presa perfetta per l'hamburger. La presa perfetta per l'hamburger. Cari ascoltatori, ci sono stati dei ricercatori giapponesi, ingegneri, odontoiatri, esperti in meccanica dei fluidi, che per 4 mesi hanno studiato come prendere bene l'hamburger in mano per evitare che il ketchup ti fuoriesca. E il team di scienziati ha detto: il miglior risultato è quello dove il pollice e il mignolo sono sulla parte inferiore, mentre le altre dita sulla parte superiore del panino. Non fatelo che state guidando, non provate a mettere, ci sono le figure sulla Stampa, vi rendete conto come tenere l'hamburger? Mamma mia, dai, la carta costa, ma non lo capiscono, io non so cosa fare. Com'era quella sigla nuova? No, andiamo al GR, lascia stare, va.